Io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Mentre andiamo alla caserma, mi dice una frase che mi resterà sempre nella testa. Fidati solo di chi veste la tua divisa. In legione si diventa fratelli e francesi non per il sangue ricevuto, ma per quello versato. Sono Gerardo, ho 45 anni, vivo a Roma. La mia storia inizia nel 1989, quando mi arruolai per la prima volta nella legione straniera francese. Qualunque sia la tua origine, la tua religione, la tua nazionalità, qualunque siano i tuoi diplomi, il tuo livello scolastico, qualunque sia la tua situazione familiare o professionale, la Legione Straniera ti offre una vera opportunità per una vita nuova. Sono le 16:08 e questo è quello che dice in questo momento. Se aprite il computer e andate sul sito della Legione Straniera, la pagina del reclutamento, questo è quello che dice in testa alla pagina, il sito appunto in cui vengono raccolte le richieste per aderire alla Legione Straniera. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, questo è un programma in cui si raccontano delle storie e appunto può succedere di raccontare storie molto diverse tra loro. La storia di oggi è una storia indubbiamente particolare perché non capita a tutti. A me è capitato di traverso e più tardi vi spiegherò perché, insomma, però non capita tutti i giorni di incontrare qualcuno che ha fatto una scelta così radicale, che in qualche modo ha preso, se n'è andato ed è sparito dalla circolazione, perché per un minimo di 5 anni, per un massimo di 20, poi con del possibile proseguo, un possibile proseguo di carriera, ma questo lo chiediamo più tardi a Gerardo che ce lo spiega meglio. Però almeno per 5 anni, questa è la ferma, mi pare obbligatoria in legione straniera, di fatto si sparisce. 349-238-6666, non voglio sapere se siete stati in legione straniera. Poi se c'è qualcuno che c'è stato oltre Gerardo e all'ascolto, ben venga il suo messaggio e ci racconti la sua storia o via SMS o sul sito, perdonatemi, sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui Radio 24, o via mail, voi siete qui @radio24.it. Se però, anche solo, siete spariti dalla circolazione per un tot di tempo, per qualche giorno, per qualche settimana, per un mese, e avete voglia di raccontarlo, 349-238-6666. La storia di Gerardo appunto è una storia molto particolare perché ha a che fare con un corpo molto particolare. Ci sono un sacco di curiosità che voglio chiedere, però prima cominciamo dai fatti. Questa è la storia di Gerardo. Nel 1988, dopo un anno nella Folgore, faccio domanda nei carabinieri, ma vengo dichiarato non idoneo. In preda alla delusione parto dalla mia città, Roma, e prendo un treno per Marsiglia. Vado a Aubagne, al centro di reclutamento della Legione Straniera. Qui comincia un percorso di 5 giorni in cui ci si sveglia alle 5 e si va a dormire alle 23. Siamo circa 200, provenienti da oltre 120 nazioni. Veniamo sottoposti ad un addestramento selettivo suddiviso in corse sempre più veloci. Piegamenti sulle braccia, salita della fune senza gambe, trazioni alla sbarra, ma anche pulizia delle camerate, dei piazzali, dei bagni. Il tutto ininterrottamente intervallato da comportamenti ai limiti dello schiavismo da parte dei legionari. E poi visite mediche e interrogatori snervanti. Vengo reso idoneo e firmo il contratto. Mi viene cambiato nome, genitori e data di nascita. Partiamo in 13 su 200 per Castelnaudary, sui Pirenei. Qui comincia l'inferno. 6 mesi con addestramenti massacranti, a terra e sottoterra, in acqua e sott'acqua, corse, marce, lanci dalle funi, uso, smontaggio e rimontaggio delle armi, anche bendati e in acqua. Arti marziali e un addestramento al limite della sopportazione umana, anche di notte, anche con caldo e freddo. Gli addestramenti sottoterra consistono nello strisciare all'interno dei cunicoli sottoterra quando viene addestrato per andare a mettere delle eventuali bombe o mine che vengono utilizzate dagli incursori per predisporre il terreno per le truppe che verranno successivamente e che devono trovare spianato il cammino. E in più calci, schiaffi, percosse, torture e umiliazioni di ogni genere. È qui che avviene la vera selezione. Non ci sono raccomandazioni. Dopo la marcia del Képi Blanc, 700 km in 7 giorni, solo con bussola, altimetro e armi, senza cibo né acqua, veniamo arruolati e ci danno la destinazione. Mi mandano al 13° DBLE a Djibouti. Prima però mi rimandano a Dubagn per l'accorpamento. Qui conosco un altro italiano, che chiamerò F, che dopo 5 anni ha superato l'esame da istruttore. È del centro Italia, facciamo 2 chiacchiere e la sera decidiamo di bere una birra. Mentre stiamo bevendo si avvicinano 2 ragazzi italiani e 1 spagnolo, 2 giorni prima scartati dalla legione. Cominciano a prenderci in giro come traditori della nazione perché arruolati con la Francia. Ci si mettono intorno e uno di loro tira fuori un coltello e lo passa vicino al collo del mio collega. Quello che vi racconto durerà al massimo 10 secondi e ho capito quello che è accaduto solo dopo, ripensandoci con calma. F colpisce con il gomito il mento del ragazzo, gli afferra il polso, gli toglie il coltello e glielo pianta nel dorso della mano infilandolo sul tavolo. Si alza in piedi, afferra quello dietro di me per il collo, sfila il coltello dalla mano del primo e glielo pianta nel trapezio sopra la spalla sinistra. Mentre il terzo, lo spagnolo, tenta la fuga, F capovolge il tavolo, gli corre dietro, lo prende per i capelli, gli sferra un colpo con il piede al poplite dietro il ginocchio, lo sdraia e lo immobilizza con un colpo del tacco sullo sterno. I 3 imprecano. F dice al gestore del pub di chiamare i gendarmi. Dopo l'arrivo delle guardie e avere dato spiegazioni, usciamo. Mentre andiamo alla caserma mi dice una frase che mi resterà sempre nella testa. Fidati solo di chi veste la tua divisa. In legione si diventa fratelli e francesi non per il sangue ricevuto, ma per quello versato. Il giorno dopo F era partito e non so per dove. Allora, io sono stato legionario per 20 anni. Si può andare via e prendere la pensione direttamente dall'esercito francese dopo i 20 anni. Dopo 10 anni hai la possibilità di avere il passaporto francese. Attualmente le regole sono cambiate e bastano 5 anni. Sono uscito perché volevo fare altre esperienze e poi perché comunque la pensione da legionario, cioè andavo in pensione con lo stipendio, che è molto alto, mi permetteva di poter vivere anche di rendita. Passano 20 anni. Nel 2009... prima di congedarmi passo per il centro di addestramento cinofilo, vedo degli splendidi esemplari di lupi. Mi avvicino all'istruttore, mi dice che sono lupi cecoslovacchi, addestrati per la ricerca esplosivi e che prendono in un allevamento in centro Italia da un ex legionario. Quando torno in Italia decido di cercare l'allevamento. Dopo una settimana di visite mi reco a Rieti. Davanti a me un cancello con scritto «Allevamento lupi cecoslovacchi per forze armate e forze di polizia». Il mio presentimento ci azzecca, mi trovo davanti proprio F. Fisicamente sembra avere 30 anni invece di 45. Sono venuto a prendere un cane, gli dico scherzando. Passiamo la giornata insieme, una splendida cucciola mi segue da quando sono arrivato. È lei che ha scelto te, non puoi tirarti indietro, mi dice lui, mentre mi saluta. Io apro la portiera e la cucciola salta sul sedile. In macchina, col respiro del cane che mi fa compagnia, penso a quello che mi ha insegnato F 20 anni prima. In legione si diventa fratelli. Allora mi sembravano solo parole, ma quel giorno, 20 anni dopo, ho capito cosa volesse dire. Quel giorno, 20 anni dopo, ho ritrovato un fratello. Oh, easy, easy. There's no need to take that toll. Oh, easy. I'm on the telephone, but just leave us alone. Oh no, I should've kept my receipt. Nei paesi succede, almeno succedeva quando ci abitavo io, che a un certo punto qualcuno, di solito uno di qualche anno più grande, sparisse per un po'. Di solito spariscono banalmente perché cominciano l'università e quindi si trasferiscono in città. Oppure spariscono perché intraprendono un percorso di recupero e quindi si trasferiscono in qualche comunità. Quasi tutti, quando capita di rivederli, hanno addosso qualcosa che li estranea dal paese. Ti accorgi che non è più il loro posto quello. Infatti si fermano qualche ora, salutano la famiglia e se ne tornano da dove sono venuti. Ecco, fino a qualche tempo fa classificavo quelli che se ne vanno via o come studenti o come tossici. Insomma, la mia lista non prevedeva alternative. Poi, 2 estati fa, il mio amico Alessandro era in un periodo difficile e mi ha chiesto di fare un giro in Corsica con lui e io ho accettato. Siamo partiti da Milano con 2 vespe, 2 zaini e 1 tenda. Arrivati a Bastia col traghetto, montiamo sulle nostre vespe e puntiamo verso il sud. Dopo qualche giorno su spiagge deserte, Alessandro dice che c'è troppa gente e vuole muoversi verso l'entroterra, verso le montagne. Lì davvero non c'è nessuno, dice. E in effetti ha ragione. A parte qualche pompa di benzina sulla strada, sembra che l'uomo non ci abbia ancora messo piede da queste parti. Qua non c'è proprio nessuno. La giornata è scandita da piccoli spostamenti, entrambi chiusi nei nostri caschi, in silenzio. Quando pensiamo che le vespe siano stanche, ci fermiamo. Facciamo due passi, ci diciamo più o meno sempre le stesse cose. Bello, eh? Bellissimo. Come va la vespa? La mia bene, la tua? Insomma, non c'è bisogno di dirsi altro. Una sera arriviamo in un campeggio nel nulla. Il padrone si chiama Jean, è un tipo con una decina d'anni più di noi. Parla in italiano come un italiano e ha un'aria molto familiare. Visto che siamo gli unici ospiti, ci chiede se vogliamo cenare con lui. Alessandro è in fase solitaria, prepara la tenda e declina l'invito. Io invece accetto. Durante la cena mi fa un sacco di domande su chi siamo, da dove veniamo. Parla davvero bene italiano e ha un'aria davvero familiare. Dopo avergli raccontato tutto, comincio io a fargli delle domande. Se vive lì, nel campeggio per tutto l'anno, come ci è capitato, e lui attacca: o si marcia o si muore. Lo sai cos'è? È il motto della legione. Durante la marcia del Kepi Blanc c'era brutto tempo, non si vedeva niente, solo rumore. La terra sotto i piedi cedeva. Ho sentito un urlo. Era un altro dei nostri. Era caduto, si era spezzato il femore. Ed eravamo nel nulla. Se non fossi passato da lì in quel momento, sarebbe ancora là. Quando smetto con la legione, mi sono detto allora, apro un campeggio in un posto isolato. Così se qualcuno si perde dalle mie parti, io ci sono. La mattina dopo smontiamo la tenda e carichiamo la vespa. Mentre mi restituisce il documento, Jean mi dice che non vuole soldi per averci ospitato. Insiste. Io non mi metto certo a discutere con uno che è stato nella legione straniera. Ciao Matteo, mi dice. A unire i puntini poi ci pensa mia mamma. Quando gli racconto della notte in campeggio e di Jean, lei mi dice: secondo me è il figlio della Mirella. Il Giorgio, lo dico io. La Mirella era una signora che abitava in un paese vicino al mio e per tanti anni ha aiutato mia mamma a fare le pulizie in casa. E suo figlio, Giorgio, quando era un bambino, aveva già la moto, una cagiva 125, tutta carenata. Mi ricordo che mi faceva accelerare in folle quando mi incontrava. Dopo un po', come quelli che spariscono dai paesi, anche lui era sparito. In paese si diceva che era in comunità, mia mamma non ha mai chiesto alla Mirella e la Mirella non ha mai detto niente. Un giorno però venne a piedi e mia mamma la riaccompagnò a casa in macchina. È passato quel breve tragitto perché la Mirella aprisse una porta che era rimasta segreta per anni. Le ha raccontato tutto di suo figlio, della fuga in Francia, della legione straniera, delle marce, dei viaggi in Africa, del nome cambiato e che alla fine si era trasferito in montagna. Sono sicuro di avere in camera da qualche parte una foto di me, bambino, sulla sua cagiva 125 carenata. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sono sparita per un anno, ormai 10 anni fa. Sono andata in Messico, Sonia da Brescia. Ma anche semplicemente un fine settimana sono sparito sull'isola dei pescatori, sul Lago Maggiore, dopo la maturità, per decidere cosa fare della mia vita. Nessuno degli amici è stato informato e i miei genitori non mi dissero nulla. Strano, era il 1970. 349-238-6666, sono le 16.24, questa è Radio 24 e oggi parliamo di una cosa che, insomma, di cui non capita di parlare tutti i giorni, soprattutto con uno che c'è stato. Pronto Gerardo? Ciao. Ciao, come stai? Tutto bene. Dove ti trovi? A Roma. A casa tua? Casa mia. Da quant'è che sei tornato a Roma, Gerardo? Dal 2009, però ci sono stato pochissimo. Perché hai fatto altro? Sì, ho accettato qualche ingaggio, ma niente di particolare. Ma come privato, insomma? Sì, come istruttore per quanto riguarda cose militari o un paio di volte soltanto come contractor, ma non mi piace. Gerardo, guarda, già dal tono mi sembra di capire che ci sono delle cose di cui non vorrei parlare, però io ti chiedo tutto, poi al massimo no, tu mi dici no. Quello. Ok, facciamo così. Senti, partiamo dall'inizio. Tu hai fatto 20 anni in legione straniera. 20 anni, sì. 20 anni. Sei entrato quindi che quanti anni avevi? Avevo 20... Considera, avevo 23 anni. 23 anni. Senti, ma è vera questa roba che gran parte delle persone che vanno in legione straniera fuggono da qualcosa? No, questo era vero fino a 10 anni prima che mi arruolassi io. perché attualmente già da 10 anni allora non prendevano più pregiudicati o comunque gente che scappava, perché attualmente la legione, ma anche 20 anni fa, 30 anni fa, se hai qualche precedente, se hai ricercato e così via, sono loro stessi che ti consegnano all'Interpol. Tu hai deciso, allora addirittura c'è uno va lì, salve, vorrei arruolarmi, sì, vieni un secondo che ti portiamo alla polizia, funziona così? No, loro tramite, attualmente tramite le impronte digitali, informazioni, anche se vai senza documenti. Ah, ok, ci arrivano direttamente. Loro sanno tutto. Senti, perché a 23 anni nel 1988 un ragazzo di Roma decide di arruolarsi in un corpo speciale come questo? Così particolare. Ma guarda, semplicemente è stata una delusione, perché io vengo da una famiglia dove mio padre, mio nonno, mio zio, un altro mio zio, tutti carabinieri. Okay. E perciò io sono cresciuto con l'idea del carabiniere. Andando lì, avendo già il brevetto da paracadutista, da sommozzatore, tiro con la pistola, trovarmi scartato perché non avevo la raccomandazione. Ti rodeva sostanzialmente. Mi sono girato, sì, abbastanza. Okay. E quindi invece, però tu avevi di fatto già una preparazione, insomma, per resistere al test iniziale, giusto? Sì, ma io sono stato scartato alla visita, diciamo, psicologica. Ma io non parlo dei carabinieri, parlo della legione straniera, scusami adesso. Sì, cioè, ma allora non importa niente che cosa tu hai fatto, allora non importa niente se sei iper preparato, rinizi da capo, anzi, se fai vedere che sei un po'... superiore agli altri ti scartano. No, questa cosa l'ho capita, però se vado io, per dirtene una, a parte che adesso probabilmente sono vecchio, ma se vado io, ma non resisto nemmeno quei 5 giorni, ci resisto 5 ore, poi a furia di fare funi con le sole braccia vado a casa. Tu, voglio dire, le persone che ci vanno hanno già quantomeno una prestanza fisica o una predisposizione fisica? No, io trovo di tutto, trovo gente alta 1,60 m che non sa reggersi in piedi, o gente alta 2 metri, no, l'addestramento vero e proprio, quella è una preselezione che fanno di 5 giorni per vedere se tu puoi eventualmente reggere, ma adesso la legione ne prende uno su 1000. Gerardo, in quanti posti sei stato in questi 20 anni? Tendenzialmente ho fatto servizio 6 mesi a Gibuti, no, scusami, 1 anno e 6 mesi a Gibuti, poi... Guyana francese per quasi tutto il periodo, poi sono rientrato l'ultimo anno perché ero diventato istruttore a Castello d'Arena. Che attività facevi a Gibuti e in Guyana? Che cosa facevi esattamente? Cioè, che cosa fa la legione straniera lì? Allora, Gibuti fa semplicemente, c'è il 13° DPLE, che sarebbe Demi-Brigata Legione Tranchée. Che significa? Praticamente è quella che deriva dalla legione originaria, sempre in mezzo al deserto, e comunque però... Nei problemi in Iraq, Afghanistan e così via, è la prima che interviene. Invece, e poi c'è una seconda addestramento che si fa dopo Castello d'Arena. Invece in Guyana la legione presta servizio come controllo all'interno del centro spaziale ESA, e poi lì c'è la scuola di combattimento e sopravvivenza in giungla che c'è proprio in Guyana, e in più dalla caccia all'interno della foresta amazzonica ai contrabbandieri di armi, droga e organi umani. Senti, com'è stato il primo giorno nel mondo normale? Cioè, dopo 20 anni di legione straniera, quando sei tornato a Roma il primo giorno, te lo ricordi? Brutto. Brutto perché a me tendenzialmente Roma non piace. Anche perché poi stando tanto fuori e sempre in mezzo a un determinato ambiente militare non mi piace. Ma infatti al di là poi della città, voglio dire, le relazioni umane, gli amici... persone che non vedi da tanti anni, anche perché poi quando mi sono arruolato, per legge la legione vuole che i primi 2 anni tu non hai contatto con nessuno. Per 2 anni? Per 2 anni. Ma neanche un SMS? No. Beh, una mail? Quel tempo non c'erano, però... Anche adesso si sono un po' alleggeriti, ma tendenzialmente è rimasto quello. Cioè adesso non puoi avere un cellulare per i primi 2 anni? Adesso dopo il primo anno puoi averlo, altrimenti niente. Ho capito. Né cellulare, né telefono, né niente di niente, devi totalmente scomparire. Perché anche tramite questo si vede se una persona è... Determinata. Gerardo, sì, praticamente sei una forma monacale quasi di vita. Un monaco attivo, insomma. Gerardo, purtroppo devo salutarti, ma volevo chiederti l'ultima cosa e poi devo dare la linea alla borsa. Che cosa farai cosa fai adesso? Cosa hai in mente di fare nel tuo futuro? Ma guarda, io siccome mi sono congedato da Adjutant Chef, che sarebbe un maresciallo maggiore, sì. Essendo stato un sottufficiale, entro 5 anni da quando mi sono congedato posso, ho la possibilità di rientrare. E sinceramente hai in mente di rientrare? Sto pensando, sì. Gerardo, ti ringrazio per la chiacchierata e il racconto, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, a presto, buona giornata. Voi siete qui. Mi aspettavo il cane, sinceramente, nella foto. Invece Gerardo si fa un autoscatto con un gattino, tenendo un gattino in mano e davanti alla faccia, un po' anche alimentando quest'aura di mistero intorno alla figura del legionario, ex legionario in realtà, anche se mi è parso di capire che vuole rientrarci. È, credo, a casa sua a Roma, perché è seduto sui gradini di una scala che salgono in casa. Una parete arancione da una parte, una parete rosa dall'altra, e nell'obiettivo lui, il gatto in mano e un cappello in testa. Nel 1988, dopo un anno nella Folgore, faccio domanda nei carabinieri, ma vengo dichiarato non idoneo. In preda alla delusione parto dalla mia città, Roma, e prendo un treno per Marsiglia. Vado a Dubogne, al centro di reclutamento della Legione Straniera. Qui comincia un percorso di 5 giorni in cui ci si sveglia alle 5 e si va a dormire alle 23. I conti di quello che guadagnavo. Leggo testualmente. Lavoro per 12 euro all'ora, sono 4 settimane al mese, 1920 dollari al mese. Sottrai il 15% di tasse, il costo del biglietto del treno andata e ritorno, sottrai l'abbonamento dell'autobus, sottrai telefono e internet, sottrai 124 dollari per le sigarette e poi 6,75 per l'affitto, luce e gas, sottrai 155 dollari per mangiare, totale 1500 dollari, totale definitivo 408 dollari. Sei riuscito a mettere da parte 408 dollari al mese per quando sarà andato in pensione e per quelle medicine che il servizio sanitario non passava. Dopo quasi un anno di questa vita, decisi di arruolarmi. Questo è il pezzo con cui Colby Basel, che è l'autore di questo libro che è diventato famoso qualche anno fa, che si intitola Ammazzare il tempo in Iraq, di fatto attacca la storia, attacca la sua autobiografia e racconta come e perché si è arruolato. Perché in tutte le storie in cui qualcuno piglia e non per forza sparisce, come succede per Gerardo e tutti quelli che si arruolano o cercano di arruolarsi nella Legione Straniera, ovviamente c'è qualcosa prima, è chiaro, no? Gerardo ci ha detto che non tutti fuggono da qualcosa, adesso nemmeno più i delinquenti vengono presi nella Legione Straniera, però ognuno, come sempre, ognuno ha una storia per cui decide di fare qualcosa, e soprattutto ha una storia se decide di fare cose importanti come arruolarsi, come diventare prete, insomma, penso a scelte di vita molto importanti. Lui, l'autore di questo libro di cui vi leggerò un altro pezzo adesso, Colby Basel, è un tizio che di fatto parte per l'Iraq, si arruola, prova ad arruolarsi nei Marines, non ce la fa, si arruola nell'esercito, va in Iraq e lì comincia a tenere un blog, sostanzialmente uno dei primissimi blog, credo fosse il 2004, era da poco iniziata la guerra in Iraq, e a quel punto raccoglie tutto in un libro che si intitola quello che avevo appena detto, Ammazzare il tempo in Iraq. Nel pezzo che voglio leggervi, oltre a questo in cui fa i calcoli e capisce che gli rimane ben poco per vivere, c'è un altro pezzo interessante, è subito dopo, è proprio l'inizio, è quando lui prende e va ad arruolarsi. Mi piaceva questo reclutatore dell'esercito, molto di più di quello dei Marines. Probabilmente perché mi stava vendendo l'esercito come se fosse stata una cazzo di vacanza al Club Med. Ma la cosa importante era che i Marines ti facevano firmare per 4 anni, mentre l'esercito ti portava via solo 2 anni di vita. Andò avanti a parlare, mostrandomi un volantino dopo l'altro, e poi ricominciò con tutti gli extra e i vantaggi offerti dall'esercito. E continuò fino a quando non mi ritrovai a dirgli: «Senti capo, tutto questo è fantastico, ma l'unica cosa che mi interessa è firmare e entrare in fanteria. Vediamo di arrivare alla riga dove devo mettere la firma». Tirò fuori tutti gli incartamenti e cominciò a farmi delle domande. «Sei schedato? E se sì, in quali stati?» Insomma, voleva sapere tutto, persino sui miei anni giovanili. Gli raccontai tutto quello che c'era segnato sul mio conto. Un paio di imputazioni per scazzottate, ebbrezza molesta, furto ai grandi magazzini, manomissione di container e altre stronzate del genere. E lui disse: «Nessun problema, domani vado in tribunale e me ne occupo io». Seconda domanda: «Hai un diploma di scuola superiore e se sì, quale hai frequentato?» Gli risposi di sì e lui disse: perfetto, domani vado a scuola e mi faccio dare un attestato. I tatuaggi che hai fanno riferimento a qualche gang? Gli dissi di no. Bene, troverò un ufficiale che firmi una liberatoria per quelli che hai sulle braccia. Sei cittadino americano? Hai una tessera di previdenza sociale? Gli dissi di sì, ma che non sapevo bene dove l'avessi messa. Nessun problema, me ne occupo io. Ero sbalordito da come stesse filando tutto liscio. Mi chiese se avevo mai fatto uso di stupefacenti. La domanda da farmi non era se, ma quanto in questo momento stai facendo uso di stupefacenti? Ebbi un attimo di esitazione nel rispondere. Lui girò lo sguardo verso il suo superiore, che era nello stesso ufficio e stava sbrigando delle pratiche alla scrivania, e al tempo stesso mi diede un'occhiata come per dirmi non aggiungere altro, e mi fece segno di seguirlo nel retro dell'ufficio. Le parole sono azioni e fanno accadere le cose, lo diceva Hanif Qureshi citando peraltro Wittgenstein, che diceva semplicemente le parole sono azioni. Cerchiamo di farlo tutti i giorni attraverso le vostre parole, continuate a inviare storie a voi siete qui, @radio24.it. Raccontare storie è sempre di più un atto politico, non ha a che fare con le idee, non ha a che fare con le ideologie, sono solo piccole storie della vostra vita che in qualche modo raccontano qualcosa di voi. Tutte queste puntate, tutto questo programma è anche scaricabile in podcast dal sito di Radio 24, dal profilo di voi siete qui di iTunes, quindi abbonandovi gratuitamente. Tutto il resto è su Facebook, tutto il resto è su Twitter. Grazie a quelli che hanno reso possibile anche questo programma, che sono Mauro Pescio, Tiziano Bonini, Margherita Ina e soprattutto Pietro Lacorte. La storia di oggi era di Gerardo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Paolo, ho 24 anni, la storia di domani è la mia e parla di quando si è dentro la notizia. Questa è la mia storia e io sono qui.